per esempio sparivo scendendo a Plattamona, prima non mi perdevano un attimo, però come c'è propagazione si rompe le bola e con quattro batte non fai nulla. E comunque ho notato che nei DX, no? Tu arrivi, ti arriva, che ne so, questo spagnolo a bomba, no? Tu lo chiami con i 12 watt del 3009 e non risponde. Attacchi lineareto che praticamente ti piazza di due punti S in teoria, anche a mandala laterale, e ti risponde subito e ti dice 5-9. Ma scusa, allora se tu arrivi 9 attaccato, in teoria potresti arrivare, che ne so, un 7 liscio, però quando gli arrivavi 7 non ti rispondeva, capito? Sai cos'è? Ci sono certi, un po' poco corretti, che se non gli arrivi almeno 9 dicono sei basso, non ti ascolto, sei nel QRM, capito? Anche alcuni radiamatori in HF sentivo, cioè entrava l'altro radiamatore e diceva ma sei basso, se non eri 9.30 eri basso e ti lasciava perdermi, e non è comportamento buono quello. E infatti lo so anch'io che è così, e infatti sono tutti attaccati, è per quello che ti arrivano, perché sono tutti attaccati, non è che sono i figli di Buru, a chi vegano a 400, vegano a 500, compresi attaccati, e tu non vai nulla. Qual è il limite in HF in banda laterale? Quant'è? 500 per i radiomotori? Sì, 500, ma quelli c'hanno 3000 watt. Allora, domanda all'esame. Dimmi la differenza tra QRM e QRN. QRM sono i disturbi normali e QRN sono i disturbi atmosferici. Sì, praticamente N credo sta per natural, cioè disturbi atmosferici, M sta per, non so, man, vabbè, quelli creati dall'uomo, là, tutta la mondezza elettronica creata dall'uomo, ecco, mica lo sai, io credo che fosse un ciappino, e invece hai saputo la domanda così a bruciapelo. Sì, fanne domande. Non ti ho detto una cosa importante su Sam. È che non le so io le domande, cioè non so le risposte giuste, questa l'avevo letta l'altro giorno, te la volevo chiedere, intanto l'hai saputa subito. Magari a uno qualsiasi gli chiedono una domanda del genere, gli viene il panico, oppure non lo sa il tipo e lo bocciano. E se ti mettono pure in difficoltà, anche se la sai, ti mettono in difficoltà come hanno fatto a me e ti fottono. Sì, come fanno certi professori universitari quando vogliono fare andare male un alunno, no? Come si dice, quello che dà l'esame, dai. Se la girano un po' come vogliono loro, però non mi stai dicendo, però così, però colà, hai capito? A me mi hanno chiesto a cosa serve l'accordatore dell'antenna. Tu cosa arrivi? Accordare l'antenna, eri sbagliato. Eh sì, praticamente serve a far vedere al finale un'impedenza prossima ai 50 ohm. Praticamente non serve accordare l'antenna, l'antenna rimane disadattata, però almeno il finale vede 50 ohm e non si brucia. Quello che ti potrei dire io, terra a terra, è così, ecco. Ed è giusto come cosa, serve a variare l'impedenza dell'antenna. Ecco cosa, la domanda giusta qual è. No, poi infatti qualcuno si lamentava, dice io c'ho un pezzo di ferro, l'ho accordato, no, c'ho un e uno ma mi sentono basso. È chiaro, un pezzo di ferro, che sia la rete del letto, che sia lo stendino, resta sempre una rete del letto, non è un'antenna bella tarata risonante. Certo, non è stazionaria, ma se hai un pezzo di ferro attaccato, capo. Infatti, basta avere un accordatore e tu ti accordi un cacciavite, però non ti sente nessuno. Quando penso invece, quando avevo fatto quella prova, no, con allora l'antenna che hai tu, no? La Proxel Pro X1, con un mammut e il pezzo aggiunto, in modo che risuonasse molto in basso, no? Il fischietto. Eccolo, avanti chi chiama, avanti chi fischia, ha detto, anzi. Dalla macchina ero così, troppo facile, capito? Però, mamma mia. Servola. E quando c'era il volante meglio per andare in quella bassa bassa dove andavamo sempre. Cazzo. Tutti con la manta poi cercavano di andare, non è fatte che non ci avete l'antenna, perché si vedevano che schiaccia voi e mi rispondevano. Te lo grida, vi va più di polo io. Proprio ma chissà frequenza me l'avevo fatto. E poi con un pavo da campagna, mamma mia. Piratone. E se no quando c'avevo la multibanda che qualcuno si faceva a porco con i DX. Ah, cosa? Il radioamatore che modulava da casa tua praticamente, dal tuo impianto? Perché lui antenne non ne aveva, se l'avevo costruita io, però lui era radioamatore e gliel'avevo fatta un po' più piccola, perché lui posto non ne aveva molto, non era come la mia che c'aveva anche gli 80 metri, a lui gli mancavano gli 80 metri, gli mancavano, tutte le altre ce le aveva, ma gliel'avevo fatta più corta in modo che andava su tutte le altre frequenze meno che gli 80 metri, capito? In 80 metri arrivavano sparati in campagna, arrivavano di sparati. Una volta ho dovuto fare la lista, li chiamava per nominativo, dallo 0 fino a 9. Che poi mi pare aver capito che era una macchinetta questo facendo 10. Una macchinetta. Poi parlava l'inglese a livello avvero. Ti sto dicendo di russo. Cazzo, avanti il prossimo, cazzo. Ti sto dicendo che, guarda, si faceva a beffa. Riempiva cazzo il logo come nulla. Ma tutta la roba che c'era in campagna lì, che fine ha fatto, antenne di poli, tutto in malora? Tutto abbandonato lì, c'è l'antenna multibanda, c'è la X300, cosa cazzo non c'è lì? Tutto abbandonato. Peccato, però quella roba forse andava smontata per tempo e conservata o venduta, che ne so io. Pur di non farla marcire al vento, al sole, che la pioggia, capito? C'è una direttiva VHF, non so quanti elementi è, che è enorme. Quando la puntavo quella lì, una belva, quella VHF l'avevo regalata a un amico, un radioamatore, non so quanti elementi era anche quella. Non sai antenne che c'avevo io, non hai idea. Io da parte, vabbè, per ascoltare almeno, da parte per il PMR vanno bene quelle. Ho la Sirio CX 440, quella piccola che avevo qui, che stranamente a qualche persona non aveva funzionato, non so perché, ma o era difettosa di fabbrica. Perché qua bene, nonostante io fossi copertissimo, riuscivo a fare qualcosa. E poi c'ho questa Diamond BC202 in alluminio e non resina, come piace a me, alluminio, che copre la UHF ed è una 2x5 ottavi, quella è molto carina. Te l'avevo fatto vedere le foto tempo fa. Usi futuri, non si sa mai. Più una quantità infinita di antenne veicolari VU, piccole, medie, grandi, cazzo. Ecco, mi servirebbe una base magnetica per avvitare qualche antenna, che una bibanda ce l'ho 5 ottavi grande per VU, poi ho l'antenna multibanda anche. Allora, quelle sono, ne ho assortite, cioè quelle non sono basi grandi, magnetiche, quelle sono quelle che hanno le basettine da 3 cm. Con lo stilo sottile sottile e il cavo per auto 3 metri di quello sottile, come si chiama, RG, quello fino fino da 3 mm, RG 174 mi pare si chiami. e ce l'ho da piccole, da 10 centimetri, ce l'ho da 30, da 50, più di un esemplare certe volte per ogni tipo di antenna. Poi avevo quelle con la basetta tipo da 6 centimetri, 6 o 7 centimetri, quello che vendeva l'elettronica, di cui non ricordo mai la sigla. Vabbè, insomma, un po' di roba, ma tutti a questi folli, perché 10 di un giudice, per averne 10.000 alla fine, per fare cosa, bah. Ho visto un'antenna, era HF, di quelle fatta in scatolato addirittura, il boom fatto in scatolato, tu lo devi vedere, una bestia antenna paurosa. Io sempre che le prendevo quelle per fare prove comparative tra l'una e l'altra, no? Poi queste prove comparative non si fanno mai perché di ricezione, sai, però per ricevere mi serve uno smitter per avere un'idea delle. Però lo smitter nei baobab non è affidabile. Non c'è uno smitter veramente affidabile che sia il giusto. Forse il veicolarino, ma non è che posso uscire col veicolarino in macchina, passa la pattuglia, me lo sgama, me lo fa mangiare, o peggio me lo infila nel QSO. Purtroppo noi non possiamo, capito? Se ero riuscito a prendermi quel pezzo di carta, almeno in macchina mi sarei divertito un po'. Mai dire mai, al costo di andare a Napoli e a prendere solo a pagamento. No, non mi piace così no, naturalmente, perché sennò possono sempre dire che io l'abbia presa perché me la sono comprata, invece no, io se me la prendevo la volevo regolare in modo che non mi potevano dire niente, perché io ho l'intelligenza per potermela prendere, solo che sono nel mirino di qualche stronzo. Vabbè, comprata cosa? Beh, perché molti l'hanno meritata la patente, certi hanno copiato spudoratamente, se no non avrebbero mai conseguito probabilmente. E certi tramite conoscenze l'hanno avuta così, e che vuoi che ti dica? Purtroppo sono cose che succedono, a gente che se lo merita veramente non gliele danno. Perché io fino a prova contraria le antenne me le costruivo, non andavo al negozio a comprarmele e funzionavano. Natali, vista l'ora, io, caspita, 9:05, qua è buio, pensa, devo mettere la moto dentro, devo avviare la lavatrice assolutamente, sennò finisce troppo tardi, capito? E rimaniamo scoperti anche come questi panni che usa mamma, dai, questi asciugamani, dai, ti saluto Natali, buona visione di TV, se guardi qualcosa in TV, ci sentiamo domani o quando capita, se oggi siamo entrati troppo tardi, dai, poi anch'io sono un po' frullato, mi accendo la TV, mi sdraio, mi guardo qualcosa, ok, ciao, buona serata, ciao. Ciao, grazie per le quattro chiacchiere Marco, per la compagnia, ci sentiamo alle prossime, dai. Anch'io me ne passo in corretti, tanto si è seccato il mare, non c'entra nessuno. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao a tutti, ciao.